America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Continua purtroppo questa tragedia di Boston, la maratona di Boston, si contano le vittime, sono tre, abbiamo ormai i nomi di queste vittime. Una ragazza di 29 anni, si chiamava Kristen Campbell, un ragazzino di 8 anni, Martin Richards, e proprio poco fa abbiamo saputo che la terza vittima era un giovane studente all'università. Non ci sono ancora i mandanti di questo attentato di Boston. Il presidente americano però è intervenuto chiarendo che si tratta di un attacco terroristico. Sentiamolo. This was a heinous and cowardly act, and given what we now know about what took place, the FBI is investigating it as an act of terrorism. Barack Obama dunque spiega: quando c'è una bomba, l'FBI tratta l'investigazione come un atto di terrore. Ebbene, non si è sbilanciato il presidente, non si è sbilanciato nessuno, devo dire c'è una straordinaria severità e coerenza in questo approccio, non soltanto da parte delle autorità ma da parte dei media. C'è una pista interna, c'è una pista internazionale, è inutile fare speculazioni nel momento in cui non si sa davvero nulla di preciso. Ma il terrorismo, la vulnerabilità dominano. Sentiamo il sindaco Bloomberg a New York. But we do know that this was an act of terror. And that terrorism remains a serious threat in our country, and that's especially true here in New York City. Bloomberg conferma: la città è in una specie di stato di assedio, fino a quando non avremo saputo cosa è successo davvero a Boston non abbasseremo la guardia, e restiamo, ha detto, una città vulnerabile, restiamo un paese vulnerabile. Beh, posso raccontarvi che ieri vicino a Times Square a New York c'erano, ma io ne ho contate 120 macchine della polizia parcheggiate in vari posti di Times Square con i lampeggiatori accesi, intasavano il traffico, però volevano rispondere a questa paura strisciante che sta diventando in queste ore la conseguenza più diretta dell'attacco di lunedì alla maratona di Boston, perché la verità è che non siamo più sicuri a casa nostra, è quello che ha voluto dire il sindaco di New York Michael Bloomberg, che poi ha fatto tutta una serie di descrizioni. Ci sono migliaia di telecamere, stiamo cercando di usare dei metodi software in collaborazione con la Microsoft per poter collegare queste immagini a degli avvertimenti ai poliziotti. Insomma, ha cercato di rassicurare, ma ha anche sottolineato che siamo comunque vulnerabili a un attacco, ed è questo alla fine, credo, il corollario centrale di quello che è successo a Boston. E questa, direi, questa verità, la riaffermazione di questa nostra fragilità, della nostra vulnerabilità a un attacco che non ci dovrebbe essere in una giornata di sole quando c'è un evento sportivo, che risponde anche, devo dire, a decine di mail che ho ricevuto, di Twitter, di messaggi su Facebook, che in qualche modo dicono: ma qui ci sono due pesi e due misure, si dà questa grande attenzione a quello che è successo a Boston dove ci sono stati tre morti, poi si ignorano le carestie, si ignorano le stragi, le guerre silenziose intorno al mondo. Un Twitter mi scrive: 18 bambini uccisi in Siria, morti di serie A, morti di serie B. Bene, insomma, io non credo nelle graduatorie, e ovviamente siamo tutti disperati davanti all'impotenza nel combattere genocidi, carestie, ingiustizie, le morti dei bambini e delle loro madri, ma per noi transatlantici europei, che quest'anno abbiamo anche portato a casa il premio Nobel per la pace perché abbiamo sconfitto le guerre, ci accorgiamo che il terrorismo è in agguato dietro l'angolo, e che quindi diminuisce questa sicurezza retorica che ci avrebbe dovuto dare quel premio Nobel. Per questo credo ci sia una differenza tra quello che è successo a Boston e questa straordinaria identificazione che un po' tutto il mondo ha sentito. I can't believe this has happened. She was such a hard worker at everything she did. This doesn't make any sense. Questa è la voce di una madre in lacrime che ha perso la figlia. Patty Campbell ha descritto sua figlia come una ragazza molto dolce, Christy Campbell, 29 anni, lavorava in un ristorante, lavorava anche 16 ore al giorno. C'è anche un lato alquanto tragico, triste in questa storia, perché Patty Campbell e il marito avevano chiamato l'ospedale e gli avevano detto che la figlia era viva, che era morta l'amica della figlia, e dunque si sono recati quando hanno potuto il giorno dopo, perché gli ospedali erano bloccati, paralizzati, per salutare la figlia. Li fanno entrare in camera e nel momento in cui entrano si accorgono che non è la figlia ma è l'amica della figlia. C'era stato uno scambio di identità. Quindi per lei lo shock credo sia stato ovviamente ancora più drammatico. Ma è stata identificata anche la terza vittima, uno studente universitario, ma insomma l'immaginario collettivo resta focalizzato su Martin Richard, questo bambino di 8 anni che aspettava con la madre, la sorellina e il papà sulla linea del traguardo, tra l'altro sorellina e madre che sono state ferite in modo catastrofico, così dicono i comunicati stampa. Ecco, davanti a queste situazioni è chiaro che nessuno si sente più sicuro. C'è una foto struggente di Martin che ieri ha fatto il giro del mondo su internet. Per chi non l'avesse vista può andare sul nostro sito radio24.it e vederla. E, insomma, c'è Martin che sorride, sdentato, mingherlino, piccolino. Ci sono i pennarelli con cui ha scritto il piccolo manifesto che mostra tenendolo fra le mani. Questo manifesto dice: basta far male alla gente. Poi in grande colorato sotto: peace, pace. E di fianco due cuori sotto il simbolo della pace. Ecco, questa foto è andata virale su internet perché Martin è il bambino di tutti noi, è il bambino che vive in una società che non è in guerra, che non è travolta da tribù sanguinarie. È terribile ovviamente che in Siria siano stati uccisi 18 bambini come Martin, ma in Siria c'è la guerra civile, a Milano, a New York, a Boston, a Berlino, a Parigi. No, per questo credo ci sia stata questa reazione emotiva così forte dappertutto. La paura è improvvisamente vicina, la fragilità è percepibile. The fact is, there remain people who want to attack us. And the moment that we let our guard down is the moment that the terrorists are waiting for. Questo ce lo conferma Mike Bloomberg quando dice che la città è fragile, ma che facciamo di tutto per proteggerci. Però queste 120 vetture che ho visto schierate con queste luci accese certamente rassicurano, ma il prossimo attacco non sarà quando l'allerta è massima, quando ci sarà una festa, una giornata di sole, una vacanza primaverile, e quando abbassiamo la guardia. Non potremo deviare ogni attacco, dice, lo abbiamo visto a Boston, ma dovremo fare di tutto per provarci. Un modo per farlo credo sia facendo girare su internet questa foto di Martin, per rendergli omaggio, certamente, per piangere con il suo papà, la sua mamma, la sorellina, ma anche per darci sicurezza, per non abbassare la guardia e per ricordarci che se siamo vigili, chissà, forse anche un attacco potrà essere evitato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Direi continuiamo a dedicarla così in omaggio proprio a Martin, alla pace. È una delle canzoni pacifiste più conosciute del mondo, quindi la facciamo dedicare da Joan Baez a Martin Richard, il bambino di 8 anni ucciso a Boston con il cartello Peace in mano. Where have all the flowers gone? Di Joan Baez. Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.